Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, eccoci di nuovo insieme per l'appuntamento del lunedì qui a Radio 24 con il mondo dei trasporti e della logistica. Anche oggi ospiti, commenti e notizie, da una parte i riflessi dell'emergenza sanitaria che raccontiamo ormai da mesi, dall'altra uno sguardo rivolto a quello che sarà tra paura, speranze, tanta voglia e necessità di ripartire in un quadro ancora molto incerto. Partiamo da una fotografia del comparto del trasporto merci, fotografia scattata da ANFIA, che è l'Associazione Nazionale della Filiera Automobilistica. Il direttore Gianmarco Giorda in linea con noi. Buongiorno Giorda. Buongiorno a tutti. Ecco, la ricerca chiaramente si riferisce alla realtà fotografata prima dell'emergenza, ma proprio per questo rende bene l'idea di un comparto, l'autotrasporto, che forse mai come in questo periodo ha potuto dimostrare la valenza strategica che ha per il paese in termini economici ma anche sociali. Giorda. È uno studio, tra l'altro, che è alla quarta edizione, uno studio che è appunto fatto da ANFIA, grazie anche a tanti dati ufficiali che raccogliamo chiaramente sul web con le nostre fonti. L'idea è di fare una fotografia molto dettagliata del trasporto merci in Italia e in Europa, analizzando sia i temi di evoluzione del trasporto, sia i temi regolamentari, la produzione e l'immatricolazione. Due o tre dati, diciamo, importanti che riassumono un pochettino quelli che sono appunto gli obiettivi dello studio. Innanzitutto, il trasporto su strada in Italia e in Europa continua a essere il mezzo di trasporto, la modalità più importante per far viaggiare le merci. Volumi in aumento, anche se in aumento in maniera, diciamo, meno marcata rispetto agli anni precedenti. Sicuramente sarà difficile recuperare nei prossimi anni i volumi persi negli anni della crisi. Un altro dato interessante e che sta aumentando in maniera significativa anche il volume di acquisti online, sia in Europa che in Italia. Questo è un dato secondo me interessante a sottolineare, e questo chiaramente genera anche una richiesta, una domanda di trasporto maggiore. Tanto per darvi un'idea, solo in Italia l'e-commerce è aumentato del 15%, adesso ha un valore quasi di 32 miliardi, per cui questo genera appunto una domanda supplementare, soprattutto mettendo in moto anche il tema della city logistics, per cui anche le consegne dell'ultimo miglio che stanno aumentando in maniera considerevole negli ultimi anni. In Italia oltre l'80% della merce movimentata viaggia su gomma ed è trasportata da mezzi che hanno un'età media di quasi 14 anni, ormai è la più alta tra i paesi europei. Una tendenza che rischia di consolidarsi, perché tra gli effetti dell'emergenza sanitaria ed economica c'è il crollo verticale delle immatricolazioni di mezzi nuovi. I dati di marzo lo confermano e per i prossimi mesi le previsioni sono ancora più negative, Giorda. Sicuramente sì, noi prevediamo un 2020 in tutti i comparti dell'automotive, non solo sul trasporto merci ma anche, diciamo, il mercato delle autovetture piuttosto che la componentistica, un 2020 in calo a doppia cifra, ma un meno 20, meno 25, meno 30%, poi chiaramente adesso è ancora presto per fare delle previsioni dettagliate, ma comunque l'ordine di grandezza è sicuramente questo. Quello che noi chiediamo per quanto riguarda, diciamo, i mezzi commerciali leggeri e i mezzi industriali truck è sicuramente un'adozione immediata di quelli che sono già i decreti attuativi per l'utilizzo delle risorse che sono già state stanziate sia dal DL fiscale che dalle leggi bilancio 2019-2020, nel senso che i fondi sono stanziati, bisogna in qualche modo sbloccarli. È fondamentale sulla parte soprattutto di veicoli in conto terzi, è fondamentale agire velocemente per rinnovare il parco, che tra l'altro è anche un parco truck vecchio e poco sicuro, per cui diciamo che con il rinnovo si potrebbero raggiungere sia obiettivi di tipo ambientale ovviamente, ma anche sulla sicurezza e anche sui commerciali leggeri, per cui per intenderci i veicoli sotto 3,5 tonne. Anche in questo caso abbiamo già proposto al governo un piano significativo di incentivazione anche con rottamazione nel principio della neutralità tecnologica, perché sui commerciali leggeri è importante dal nostro punto di vista non privilegiare una singola tecnologia ma dare un ampio ventaglio anche di scelta al cliente consumatore. Gianmarco Giorda, direttore di ANFIA, grazie e buona giornata. Grazie a voi, arrivederci, buongiorno. E a proposito del mercato, un aggiornamento arriva da quello dei rimorchi e dei semirimorchi con massa a terra oltre le 3,5 tonnellate. Secondo un RAE che ha diffuso i dati, a marzo c'è stato un autentico tracollo, -61%, sono state immatricolate appena 723 unità, a marzo 2019 erano state 1853. E ora cronache e testimonianze dall'emergenza declinata sul comparto che seguiamo da vicino in questo programma. Il prossimo ospite di oggi è Massimo Stronati, presidente di Conf Cooperative e Servizi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, noi ci siamo sentiti in trasmissione circa un mese fa, quando ci ha portato la voce del movimento delle cooperative in prima linea sul fronte della logistica, come quello del welfare e in tante altre attività. Ecco, in quell'occasione aveva lanciato un appello ai nostri operatori: mancano i dispositivi di protezione individuale, ci aveva detto. In questi giorni ci è stato segnalato, soprattutto dalla Lombardia, che la situazione resta molto critica ed è passato un mese, Stronati. Sì, assolutamente vero, che poi non è adesso solo parlare di DPI intesi come mascherine, perché abbiamo problemi con gli indumenti, abbiamo problemi con i guanti in nitrile e ci sono tantissimi problemi relativamente poi a quello che succederà dal 4 maggio in avanti con i termometri. Parliamo poi dei test, se vogliamo farli quelli sierologici, ci sono tanti e tanti problemi, cioè è ciclica, risolviamo in parte per le mascherine e poi dopo ne mancano tante altre cose, c'è tanta confusione e c'è tanta impreparazione ancora purtroppo e chi lavora subisce tutte queste conseguenze. Ecco, in generale rispetto ad un mese fa cosa è cambiato per la logistica? Questa ripresa a macchia di leopardo con le autorizzazioni prese dalle prefetture, che diversi hanno riaperto l'attività, ci sono dei settori che sono aperti dell'attività e magari chi fornisce il prodotto per quell'attività non è aperta, quindi anche chi fa logistica è a singhiozzo. Però è ripartita la logistica, cioè la logistica non si è mai fermata, ha avuto delle difficoltà, quelle difficoltà che dicevo un mese fa, della impossibilità magari di usufruire dei servizi sull'autostrada, non ci sono assolutamente più quelle difficoltà lì, ce ne sono altre che sono legate alla ripresa, diciamo così, a macchia di leopardo delle attività. Contemporaneamente però sul fronte della tenuta delle aziende crescono le paure per quello che potrà accadere nei prossimi mesi, Stronati. Sul fronte della tenuta delle aziende, guardi, io sono preoccupatissimo. Lei pensi che noi abbiamo, le imprese hanno necessità di soldi freschi e io dico a fondo perduto, se non sono a fondo perduto a lunghissimo termine. E noi siamo al 155% di debito sul PIL. La situazione è brutta, se non ci sono soldi, liquidità, le imprese muoiono. Lei pensi che il decreto liquidità prevede 400 miliardi di fideiussioni, non 400 miliardi di liquidità, di soldi. I soldi bisogna andare a prendere con le garanzie in banca, ma c'è sempre lo scoglio del sistema bancario. Devi avere la possibilità per dimostrare al sistema bancario che puoi prendere quei soldi. Se uno non ce l'aveva prima, oggi anche con la garanzia, con un futuro così incerto, è difficilissimo. Tutti parlano di piano Marshall, piano Marshall aveva tanti soldi liquidi, qui ci vogliono i soldi liquidi per ripartire e guardi, è proprio veramente dura. Sarà dura, ma altrettanto forte la voglia e la speranza di uscire da questo tunnel. Grazie Stronati, Conf Cooperativa, e buona giornata. Io ho sempre il grande arcobaleno davanti, la speranza è tutta lì. Grazie a voi, arrivederci. Un fronte fondamentale per la logistica è quello dei porti. L'aggiornamento di oggi arriva dalla Liguria. Nel primo trimestre 2020 i porti di Genova e Savona, che insieme costituiscono il sistema portuale più importante del paese, hanno movimentato 16 milioni di tonnellate di merce, cioè il 5,4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo l'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, gli effetti della crisi si manifesteranno in maniera più pesante nel secondo trimestre. A livello globale però ci sono anche indicatori incoraggianti, in particolare l'industria cinese è in netta ripresa rispetto ai primi due mesi dell'anno. Secondo dati ufficiali di un'organizzazione governativa, a marzo l'indice delle prestazioni logistiche è stato pari al 51,5% con un aumento del 25,3% rispetto a febbraio. È ancora un numero da far girare la testa che rende bene le dimensioni del comparto. Il valore totale del mercato della logistica in Cina nel 2019, pensate, è stato pari a 42 trilioni di dollari con un incremento del 5,9% rispetto al 2018. E per guardare al futuro con ottimismo c'è una notizia che arriva da Fiera a Milano, è l'annuncio che nel capoluogo lombardo dal 19 al 21 marzo 2021 si svolgerà Transpotec Logitech, la tradizionale biennale dedicata al mondo del trasporto e della logistica che nelle ultime edizioni è andata in scena a Verona, un appuntamento ormai consolidato per gli operatori del settore, un'occasione di incontro e confronto sui temi al centro dell'attenzione del comparto. A presentarci la prossima edizione è Paolo Pizzo, Zoccaro, Exhibition Director di Transpotec Logitech. Per questo comparto così importante, di dimensioni così significative, che vogliamo creare un momento di incontro, di confronto, anche di business, ovviamente a valle di questo periodo, che è un periodo molto complesso, quindi questo appuntamento assumerà un'importanza ancora maggiore. La fiera sarà uno strumento al fianco degli operatori, del trasporto, della logistica, ma potrà essere anche un segnale concreto di fiducia, credo, uno strumento per cogliere in maniera proattiva quelle che saranno, quelle che dovranno essere le opportunità che emergeranno dopo questo momento. Quello che vogliamo mettere alla base di questo progetto è sicuramente l'innovazione, le opportunità in chiave di efficienza, di risparmio, la sostenibilità, sono tutti argomenti molto attuali che lo diventano ancora di più in questo periodo. Ma non dimentichiamo che al centro di Transpotec Logitech ci saranno anche soprattutto le persone, la professionalità, la formazione dei giovani. È una riflessione credo importante sulle opportunità che l'evoluzione tecnologica può dare, ma soprattutto anche creare un appuntamento che possa essere un momento di confronto e soprattutto un'opportunità per tutti quanti, soprattutto per chi cerca un lavoro, per chi ha bisogno di migliorare le proprie competenze professionali. In chiusura ancora qualche notizia. Assologistica ha chiesto la sospensione del pagamento del contributo all'autorità di regolazione dei trasporti, la cui prima scadenza è fissata al 30 aprile. La richiesta di versamento risulta inappropriata, in controtendenza rispetto alle scelte governative, così si legge in un comunicato. Dall'estero, in Francia, un'associazione di autotrasportatori ha chiesto al governo di sospendere per 6 mesi il cabotaggio, cioè la possibilità per un vettore di effettuare trasporti nazionali all'interno dei confini di un altro paese, una possibilità che negli anni è stata molto sfruttata, in particolare dalle imprese dell'est. All'origine di questa istanza, la grave crisi che ha investito l'autotrasporto transalpino in seguito all'emergenza sanitaria con il conseguente calo dei traffici. Ricordo infine che per effetto di un decreto firmato dalla ministra Paola De Micheli, anche venerdì 1 maggio e domenica 3, sulle strade extraurbane restano sospesi i divieti di transito per i mezzi sopra le 7,5 tonnellate. Termina qui oggi hashtag Autotrasporti. In chiusura, come sempre, vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda alle 13.15 con Container, che è un approfondimento su questi temi. Con questo programma noi ci risentiamo lunedì alle 13.45. Ora la linea al GR con gli aggiornamenti delle 14. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Una buona giornata. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.